dimmi un po', cosa nasconde il tuo vestito? Che cosa c'è dietro un sorriso di scure ambiguità? Forse un istinto caduto dentro al labirinto di nostra umanità cadente, truccata di virtù. Tu ti guardo imperturbabilmente mentre trasudano le voglie della tua fiera voluttà. Lo so, vuole nutrirsi a tutti i costi, le riconosce solo i gusti della tua pancia in libertà. Lo sai, però che male fa. Testa incline, artatamente verso il fine, bisogno di un'alterna via, all'antro di malinconia, fiera nel ventre, la fame langue impenitente, che solo sente la sua sfida, la sua crudele vanità. Come una città, poi decidi e scocchi un'altra freccia d'affettazione malaticcia a camuffare nostalgia. Via, per oggi basterà.